stay free, stay in nature, be free, stay strong against the human control. If we are free outside, we are a freedom criminal, outsider artist. La penna fine, inchiostro, stato mostro, mostro. Fan culo ciò che pensi e spari su di me, sui miei affari. Io meglio di Daitan 3, armatura di popolo, Amen. Rappresento la resistenza, resilienza, scienza e controinformazione. Contro cultura bestia, pazzia, la chiami pazzia, io dico la mia via, per capire, focalizzare, il nuovo così moderno di pulire la società, Covid, contro chi sta già male, annichilire per far risorgere il superuomo. Notare ogni caso di morte e gente portatrice di già qualche cicatrice. Molta gente si inizia a disinteressare del canale ufficiale di informazione mondiale, contro informazione a bestia. Iniziatevi a informare, informatevi controcorrente e non solo come polli ai canali ufficiali attaccati a molle idee di schieramenti. Siate il gallo che canta, chi al mattino sveglia menti fuori dormienti. Schiarite idee con passeggiate fuori che ci vogliono negare. Stay free, stay in nature, be free, stay strong against human control. If we free outside, we are freedom criminal, outsider artist, all this shit, bitch.